Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Così terminò quella gita, in parte piacevole e in parte no. Ripresero il cuoco bramino, arrivò il treno avventandosi con le fauci brucianti attraverso la pianura, e il XX secolo rimpiazzò il XVI. Mrs. Moore salì nel suo scompartimento, i tre uomini andarono nel loro, sistemarono le tendine, misero in funzione il ventilatore elettrico e cercarono di dormire un poco. Nella penombra sembravano tanti cadaveri. Pareva morto anche il treno, benché si muovesse. Una bara del tecnico Nord che 4 volte al giorno sconvolgeva il paesaggio. Mentre esso si allontanava dai Marabar, scomparve quel loro piccolo brutto cosmo, sostituito dai Marabar come si vedevano di lontano, limitati e alquanto romantici. Il treno si fermò una sola volta sotto una pompa per inumidire la scorta di carbone. Poi vide in lontananza la ferrovia principale, si fece coraggio, sobbalzò in avanti, girò intorno al centro amministrativo, superò il passaggio a livello, adesso le sue sbarre scottavano, e si fermò stridendo. Chandrapur! Chandrapur! La gita era terminata. E mentre finiva, mentre loro nella penombra si tiravano su a sedere e si preparavano a rientrare nella vita quotidiana, d'improvviso la lunga e strana tensione di quella mattinata si spezzò. Mr. Huck, ispettore di polizia, spalancò la porta dello scompartimento e disse con voce stridula: «Dottor Aziz, ho il penosissimo dovere di arrestarvi!» «Ma diamine, c'è un errore!» disse Fielding, prendendo subito in pugno la situazione. «Signore, questi sono gli ordini. Io non so niente.» «In base a che cosa lo arrestate?» «Ho l'ordine di non dirlo.» «Non rispondetemi in questo modo. Mostratemi il mandato.» «Scusate, signore, date le circostanze, non è necessario nessun mandato. Rivolgetevi a Mr. McBride.» «Benissimo. Proprio quello che faremo. Venite, Aziz, amico mio. Non c'è da preoccuparsi, è certo uno sbaglio.» «Dottore Aziz, volete avere la cortesia di seguirmi? Un furgone chiuso ci sta aspettando.» Il giovane singhiozzò. Il primo suono che emetteva. E tentò di scappare dallo sportello opposto che dava sui binari. «Sarò costretto a usare la forza!» gemette Mr. Huck. «Oh, per l'amor di Dio!» gridò Fielding, contagiato anche lui da quella crisi di nervi e tirando indietro Aziz prima che scoppiasse uno scandalo. Lo scrollò come un bambino. Un attimo più tardi e sarebbe stato fuori, tra lo stridio dei fischietti, braccato. «Amico mio, ora andiamo insieme da McBride e ci facciamo dire cos'è successo. È una brava persona. Si tratta certo di un equivoco. Vi farà le sue scuse. Non comportatevi mai come un criminale, mai!» «Ma i miei figli, il mio nome!» disse lui ansante, con le ali spezzate. «Via, via, non è il caso. Raddrizzatevi il cappello e appoggiatevi al mio braccio, vi accompagno io.» Nishite tamaud bhute. Jayamane Janardhane. Uscirono nel caldo del mezzogiorno sotto braccio. La stazione era in fermento. Passeggeri e facchini si precipitavano fuori da ogni angolo, molti impiegati, altri poliziotti. Ronnie scortava Mrs. Moore. Mohamed Latif si mise a gemere. E prima che riuscissero a farsi strada in mezzo a quel caos, la voce autoritaria di Mr. Tartan chiamò Fielding e Aziz andò in prigione da solo. L'intendente aveva seguito l'arresto dalla sala d'aspetto e, spalancando nelle porte di zinco traforato, apparve adesso come un dio in un santuario. Appena Fielding fu entrato, le porte sbatterono alle sue spalle e vi si mise di guardia un servo, mentre un ventilatore, per sottolineare l'importanza del momento, sventolava sudici stracci sulle loro teste. A tutta prima l'intendente non riuscì a parlare. La sua faccia era bianca, fanatica, quasi bella, l'espressione che tutte le facce inglesi avrebbero avuto a Chandrapur per molti giorni. Sempre intrepido e altruista, adesso era bruciato da un generoso calor bianco. Sarebbe stato pronto a uccidersi se l'avesse ritenuto giusto. Finalmente parlò. «È successa la cosa peggiore di tutta la mia carriera», disse. «Miss Quested ha ricevuto un affronto in una delle grotte Marabar. Oh, no, no, no, no! Ansimò l'altro con un senso di nausea. È riuscita a fuggire, grazie a Dio. Oh, no, no, no, non a Ziz, non a Ziz! L'intendente annuì. Assolutamente impossibile, assurdo! Vi ho chiamato per sottrarvi all'odio che vi sareste attirato se vi avessero visto accompagnarlo al commissariato di polizia, disse Tartan, senza badare alle sue proteste, in verità, senza quasi nemmeno udirle. Fielding ripeteva «No, no, no, no», come un mentecatto. Non riusciva a pensare altre parole. Sentiva che un nembo di pazzia si era sollevato e cercava di sopraffarli tutti. Bisognava ricacciarlo in qualche modo nella sua tana, e lui non sapeva come, perché non capiva la pazzia. Era sempre rimasto ragionevole e tranquillo, in attesa che le difficoltà si risolvessero. «Ma chi fa questa accusa infame?» domandò riprendendosi. «Miss Derek e la vittima in persona». Per poco non si accasciava, incapace di ripetere il nome della ragazza. «Miss Quested lo accusa formalmente di...» L'intendente annuì e girò la faccia. «Allora è matta!» «Quest'ultima frase non sono disposto a tollerarla», disse l'intendente, accorgendosi di colpo che erano di diversa opinione e tremando di rabbia. «Ritiratela immediatamente! Sono proprio le frasi che vi siete permesso di dire fin da quando siete venuto a Chandrapur. Mi dispiace infinitamente, signore. La ritiro senza riserve, si capisce. Perché anche quell'uomo era mezzo matto». «Ditemi, Mr. Fielding, che cosa vi ha spinto a parlarmi con quel tono? Questa notizia è stata un grave colpo per me. Vi prego di scusarmi. Non posso credere che il dottor Aziz sia colpevole». L'altro batté il palmo sul tavolo. «Questo? Questo è lo stesso insulto in una forma aggravata. No, se così posso dire», riprese Fielding, impallidendo anche lui, ma ostinandosi nella propria idea. «No, non metto minimamente in dubbio la buona fede delle due signore, ma l'accusa che muovono ad Aziz si basa su un errore, e basteranno 5 minuti per chiarirlo. Il comportamento di quell'uomo è perfettamente naturale. Del resto io so che è incapace di scorrettezze». «E infatti si basa proprio su un errore», disse la sottile, sarcastica voce dell'altro. «Proprio su un errore. Ho 25 anni di esperienza in questo paese», si interruppe, «e quei 25 anni... parvero col mare della loro stantia ingenerosità l'intera sala d'aspetto. E in questi 25 anni non ho mai sentito che non si sia arrivati a un disastro tutte le volte che inglesi e indiani tentano di stringere amicizia di carattere sociale. Rapporti, sì. Cortesia, ad ogni costo. Amicizia, no. Mai. Mi ci oppongo con tutto il peso della mia autorità. Sono in carica a Chandrapur da 6 anni, e se le cose sono andate lisce, se c'è stata reciprocamente stima e considerazione, è proprio perché tutti e due i popoli si sono attenuti a questa semplice regola. I nuovi arrivati non tengono conto delle nostre tradizioni, e in 4 e 4 8, vedete quello che succede? Il lavoro di anni va all'aria, e il buon nome del mio distretto è rovinato per una generazione. Io non reggo a vedere la fine di questo lungo lavoro, Mr. Fielding. Voi, che siete imbevuto di idee moderne, a voi certo non fa impressione. Vorrei non averne mai visto nemmeno il principio. Questo so. È il mio fallimento. Che una signorina, una giovane signorina fidanzata col più degno dei miei dipendenti, che costei, una fanciulla inglese appena arrivata dall'Inghilterra, che io debba aver vissuto. Tartan si accasciò. travolto dai propri sentimenti. Quello che aveva detto era nobile insieme e patetico. Ma cosa c'entrava con Aziz? Proprio niente, se aveva ragione Fielding. È impossibile guardare una tragedia da due punti di vista. E mentre Tarton aveva deciso di vendicare la ragazza, lui sperava di salvare l'uomo. Voleva andarsene per parlare con McBride, che gli aveva sempre dimostrato molta cordialità. In complesso era un uomo ragionevole e ad ogni modo si poteva contare che non avrebbe perso la calma. «Sono venuto qui, soprattutto per voi, Fielding», disse Tarton riprendendosi, mentre il povero Hislop portava via la madre. «L'ho ritenuto il gesto più amichevole che potessi fare. Volevo dirvi che stasera ci troveremo tutti al circolo in forma privata per discutere della situazione, ma dubito che abbiate voglia di venirci. Le vostre visite lassù sono sempre rare. Verrò di certo, signore, e vi ringrazio molto del disturbo che vi siete preso per me. Vorrei domandarvi se è lecito... Dov'è Miss Quested?» L'altro rispose con un gesto. «Stava male». «Sempre peggio. Terribile», disse turbato Fielding. Ma l'intendente lo fissava con sguardo severo, perché Fielding non perdeva la testa. Non era rimasto sconvolto alla frase «una fanciulla inglese appena arrivata dall'Inghilterra», non si era schierato sotto il vessillo della razza. Cercava ancora i fatti, sebbene il gregge si fosse deciso per un contegno emotivo. Niente irrita l'anglo India più che la lampada della ragione quando viene agitata anche per un solo attimo dopo che è stato decretato di spegnerla. Per tutta Chandrapur, quel giorno, gli europei mettevano da parte la loro solita fisionomia individuale e si immergevano nella comunità. Erano pieni di compassione, di rabbia, di eroismo. Ma la capacità di ragionare a fil di logica era annientata. Ponendo fine al colloquio, l'intendente si incamminò verso il marciapiede. Qui lo scompiglio era disgustoso. Uno dei servi di Ronnie aveva avuto l'incarico di ritirare certe cianfrusaglie che appartenevano alle signore e si stava appropriando di molti oggetti che non aveva il diritto di prendere. Era un civile, addetto all'esercito dei furibondi inglesi. Mohammed Latif non tentò nemmeno di fermarlo. Hassan si strappò il turbante e pianse. Tutte le cose raffinate che erano state provviste con tanta larghezza, venivano sparpagliate qua e là e distrutte al sole. Tenu ki nani aankh lag gayi. L'intendente afferrò la situazione a un'occhiata e, sebbene fosse pazzo di rabbia, il suo senso della giustizia si fece sentire, disse la parola che occorreva e il saccheggio finì. Allora si fece portare al suo bungalow e lasciò di nuovo libero sfogo alle proprie passioni. Quando nelle botteghe che parevano antri vide i facchini addormentati che balzavano su dai loro piccoli sgabelli a salutarlo, si disse: «Adesso lo so quello che siete, ma la pagherete. Vi si sentirà strillare». Laggi vale. Olagi wale anun nind nahi aati. Lagi wale anun nind nahi aandi. Ganganane aankh lag gayi. Tenu kinoni aankh lag gayi. Olagi walayanu, olagi walayanu, nind nahi aati. Tenu kino ni, aankh lag gayi. Mr. McBride, sovrintendente distrettuale di polizia, era il più riflessivo e il più colto dei funzionari di Chandrapur. Aveva letto e pensato molto, e un matrimonio non proprio felice l'aveva indotto ad elaborare una completa filosofia della vita, nella quale c'era parecchio di cinico, ma nulla di aggressivo. Mai che quell'uomo perdesse la calma o diventasse brutale, e accolse Aziz con gentilezza. Fu quasi rassicurante. «Devo trattenervi finché non otterrete la libertà provvisoria», disse. «Ma senza dubbio i vostri amici la richiederanno». E naturalmente avranno il permesso di visitarvi, secondo i regolamenti. Contro di voi c'è una denuncia precisa e io devo attenermi a quella. Non sono il vostro giudice. Aziz fu portato via in lacrime. Mr. McBride era colpito dalla sciagura del giovane, ma siccome aveva una teoria sugli influssi del clima, nessun indiano poteva mai stupirlo. La teoria era questa. In cuor loro? Tutti questi disgraziati indigeni sono criminali per la semplice ragione che vivono a sud del 30° parallelo. Non bisogna biasimarli. Non hanno via di scampo. Se ci stanziassimo qui, saremmo anche noi come loro. Nato a Karachi, lui pareva contraddire la sua teoria e qualche volta, con un triste e pacato sorriso, arrivava ad ammetterlo. «Un altro che si è fatto pescare», pensò, mentre cominciava a stendere il verbale per il magistrato. Fu interrotto dall'arrivo di Fielding. Riferì senza riserve tutto quello che sapeva. Circa un'ora prima, Miss Derek era arrivata al volante dell'auto. Sia lei che Miss Quested erano in uno stato terribile. Si erano precipitate al bungalow dei McBride, dove egli appunto si trovava, e immediatamente lui aveva buttato giù la denuncia e organizzato l'arresto alla stazione. «Qual è l'accusa, precisamente?» Che lui l'ha seguita nella grotta e ha tentato di mancarle di rispetto. Lei l'ha colpito col binocolo, lui vi si è aggrappato e la cinghia si è rotta, così lei è potuta scappare. Quando poco fa l'abbiamo perquisito, aveva il binocolo in tasca. «Oh no, no, no, no, ma tutto sarà chiarito in 5 minuti!» tornò ad esclamare Fielding. «Dateci un'occhiata!» La cinghia era stata spezzata di recente, la vite dell'oculare era inceppata. A fil di logica, la prova diceva «colpevole». «La ragazza ha detto altro?» «C'era un eco che a quanto pare l'ha spaventata. Ci siete andato in quelle grotte?» «Ne ho vista una. C'era un eco, sì. L'ha innervosita?» «Non ho potuto tormentarla troppo con le domande. Avrà già molte grane sul banco dei testimoni. Nessuno vuole tornarci su nelle prossime settimane. Vorrei che i monti Marabar sprofondassero in mare con tutto quello che contengono. Li vedevamo dal circolo tutte le sere e non erano che un nome innocuo. Ecco, ci siamo.» Gli avevano portato un biglietto da visita. Vakil Mahmud Ali, legale dell'imputato, chiedeva che gli fosse consentito di vederlo. McBride firmò, diede il permesso e proseguì. «Ho saputo qualcos'altro da Miss Derek. È una vecchia amica di casa e non ha peli sulla lingua. Beh, dice che voi vi siete allontanato per cercare l'accampamento e che quasi subito lei ha sentito una frana di sassi sul cavo Adol e ha visto Miss Quested che si precipitava giù per una forra. Bene, Miss Derek le è andata incontro, arrampicandosi per una specie di canalone e l'ha trovata molto malconcia. Le era volato via il casco. Non c'era una guida con lei? Lo interruppe Fielding. No, era andata a finire in un folto di cactus. Arrivando in quel momento, Miss Derek le ha salvato la vita. Cominciava a uscire di senno. L'ha aiutata a scendere fino all'auto. Miss Quested non poteva sopportare l'autista indiano, gridava «Mandatelo via!» Ed è stato questo a dare alla nostra amica un'idea di quello che era successo. Sono venute direttamente al nostro bungalow e ora sono là. Questi i fatti, fin dove li so io. Lei ha detto all'autista di raggiungervi. Mi pare che si sia comportata con molto buon senso. «Non mi sarà possibile vedere Miss Quested, immagino», domandò Fielding a bruciapelo. «Francamente, non so se sarebbe utile». «Sapevo che mi avreste risposto così, ma io lo desidero molto. Non è proprio in condizioni di vedere gente, del resto non la conoscete neanche molto bene». «Quasi niente. Ma vedete, io sono convinto che quella ragazza sia in preda di una spaventosa allucinazione». E che quel povero giovane sia innocente. Il poliziotto trasalì stupito e un'ombra passò sul suo viso, perché non tollerava che si sconvolgessero le sue conclusioni. «Non avevo idea che la pensaste così», disse, e guardò la deposizione firmata che aveva davanti per averne conferma. «Per un attimo quel binocolo mi ha sconcertato», riprese Fielding, «ma poi ci ho pensato meglio. È impossibile che dopo aver tentato di assalirla, lui abbia messo in tasca il suo binocolo?» «Possibilissimo, temo. Quando un indiano ne combina di grosse, non sono soltanto molto grosse, ma anche molto strane». «Non vi seguo». «Non potreste». Sandro Lombardi ha letto «Passaggio in India» di Edward Morgan Forster. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.